incantato per vedere il suo grande futuro proprio come lo aveva sognato. Arrivata alle porte di Roma, non ha neanche dovuto bussare, è bastato il suo grande sorriso per convincerli a farla passare. Finché mi amerai, io ti amerò.